compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Borgogna con Stefano Bartezzaghi. Oggi è una puntata dove le parole sono importanti. Parole che evocano luoghi e stati d'animo. Parole che ci portano con la voce di chi le pronuncia nella regione della Francia che deve il suo nome all'antica popolazione germanica dei Burgundi, tanto per essere precisi. La Borgogna, in francese Bourgogne, è una regione della Francia centrale. È composta da 4 dipartimenti: Yon, Côte d'Or, Nièvre, Saona e Loira. Il suo capoluogo è Digione. Le città principali, oltre a Digione, sono Chalon-sur-Saône, Auxourg e Nevers. Il territorio della regione confina con l'Île-de-France a nord-ovest, Champagne-Ardenne a nord, Franca-Contea ad est, Rodano-Alpi a sud, Alvernia a sud-ovest e Centro ad ovest. La regione è quasi interamente occupata dal Plateau de l'Ancre, modeste alture collinari che difficilmente arrivano a quote di montagna. Il clima è moderatamente continentale, a causa della lontananza dal mare. Gli inverni sono dunque freddi e le estati miti. Quando ho invitato il mio accompagnatore di oggi a farmi da cicerone in un luogo a sua scelta, che fosse per lui in qualche modo importante, la sua risposta è stata subito Borgogna. La mia reazione, di conseguenza, è stata: la Borgogna mi piace. E lui: a me piace il Borgogna, e lo dico a una che si chiama Rossi. Beh, poche parole giocate sapientemente, ed è stata subito rivelazione della sua personalità. Lui è Stefano Bartezzaghi. Beh, io credo che di dover subito dare una spiegazione sul fatto che sono veramente la persona meno indicata per parlare di viaggi in generale, perché io sono una di quelle persone che non viaggia volentieri. Cioè, io viaggio, però ho subito la nostalgia, se un posto mi piace, ho subito la nostalgia di non abitarci. Penso subito a come dovrebbe essere non abitarci. Sono arrivato anche a cercare case in posti in che mi sono molto piaciute, e per fortuna non le ho trovate. Comunque non avrei trovato i soldi per pagarmele, quindi non cambiava nulla. E quindi la gente può avere nostalgia di casa, io invece ho subito nostalgia del posto in cui sono, perché penso già al fatto di dover ritornarci, di non poterci, di dover partire e non poterci tornare molto presto. Quindi, appunto, è paradossale che io parli di qualcosa. Oltretutto mi piacciono dei posti dove, cioè, una delle caratteristiche dei posti è il fatto che non ci sia nessuno, io non posso incontrare nessuno. Quindi è ovvio che non parlo dei posti, non devo parlarne pubblicamente dei posti che mi piacciono, perché se no mi piacciono perché sono solitari, e dopo solitari non sono più. Detto questo, appunto, a me piace la Borgogna, e ci torno sempre molto volentieri, ma non sono tanto esperto della Borgogna reale, ecco, diciamo, quanto della Borgogna in cui io abiterei tanto, tanto volentieri, la Borgogna immaginaria in cui io abito, che chissà poi un giorno o l'altro diventerà anche, insomma, corrisponderà a quella reale. Borgogna reale e Borgogna immaginata. Bella questa distinzione che può esserci tra un luogo che ci siamo costruiti nella mente e quello che invece è la realtà geografica. Della Borgogna reale so praticamente quello che non si può non sapere, che è nel centro della Francia e che ci fanno dell'ottimo vino, soprattutto rosso. Le due cose già, devo dire, che andrebbero già bene, me lo renderebbero già un posto interessante. Perché, appunto, comunque la Francia ha delle caratteristiche che mi piacciono molto. È un posto in genere che sembra fatto per me. E la cosa funziona così, che uno arriva, secondo me bisogna andarci in auto. Ecco, un'altra cosa che mi piace della Borgogna è andarci in auto. Perché io l'auto non la guido mai, Io sono di Milano, a Milano non appartiene alla mia religione, cioè appartiene alla mia religione non guidare a Milano giammai, però a me guidare piace molto e mi piace su certi tipi di strade. Entriamo nel vivo di questa terra fatta di buon vino e di strade invitanti. A quanti è venuta in mente una regione d'Italia della quale si può dire altrettanto? Ho scoperto che mi piaceva guidare in Toscana e appunto poi in Borgogna ancora di più. Perché ancora di più? Perché come la Toscana è una regione collinare, quindi guidare è divertente. Ma a differenza che in Toscana e che in tutta Italia, le curve per salire sulle colline non si fanno tanti zigzag di quelli che fanno vomitare i bambini, ma loro tagliano, non so come facciano, hanno un sistema di terrapieni. Una volta uno mi ha cercato di spiegare e quindi hai queste strade tutte diritte e in cui vedi per chilometri e vai giù a diversi livelli e poi risali e ti sembra di essere al Luna Park. È bellissimo, non passano pochissime macchine, si infrangono i limiti di velocità molto molto molto spesso, ma in realtà è meraviglioso. E attraversi questi panorami desertici, perché in Francia c'è spazio, la cosa che la ricchezza francese che noi non abbiamo è lo spazio. E allora quando uno è lì, vede l'occhio che può correre lungo distese, appunto un po' di pianura, un po' di collina, e i paesi sono deserti, cioè c'è molto deserto tra un paese e l'altro. Bisogna stare attenti alla benzina, perché se uno non... può anche avere difficoltà a trovare un benzinaio. Di sera può mettere anche un po' di inquietudine, perché uno magari guida in mezzo a delle foreste per chilometri e chilometri e si immagina subito dei predoni che abbiano messo lì un tronco per cui uno si ferma e viene derubato dei suoi averi. Ci starebbe bene a questo punto una frase di Alphonse de Lamartine, poeta nato da queste parti: lo spettacolo è nello spettatore, tanto per ricollegarci alla Borgogna immaginata di Bartezzaghi che si confronta con quella reale. Anche se il sospetto che tra strade dritte, colline e spazi immensi che riempiono il cuore e che scorrono dai finestrini della nostra auto, viene facile pensare che qui lo spettacolo sia proprio nello spettacolo. Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare. Sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Borgogna con Stefano Bartezzaghi. Ci siamo lasciati a bordo di un'automobile sulle strade della Borgogna, strade dritte e deserte, dove il mio compagno di viaggio Stefano Bartezzaghi adora guidare. Ma non è l'unica cosa che adora fare quando è qui. E questa appunto è una grande gioia di guidare in Borgogna, con l'altra gioia, diciamo, complementare, ma anche un po' opposta, che è quella di mangiare e bere, che è appunto uno guida per andare a mangiare e bere, ma dopo dovrebbe guidare dopo aver mangiato e bevuto, e questo non va bene. Ma ci sono anche delle locande in Borgogna, quindi, oppure uno può avere un familiare che non beve o tirare la pagliuzza e uno si sacrifica e guida per gli altri. Ho provato tutte queste cose e appunto è un grande luogo di cibi, ma questo appunto non lo scopro, li scopro io, di cibi, di vini, di benessere. E direi che appunto le cose poi sono sostanzialmente queste: il silenzio. A me piace andare in vacanza in un posto in cui si guida bene, si mangia e si beve bene, c'è molto silenzio e si vede, ecco, l'occhio può spaziare magari con una predominanza di colore verde, anche se anche in Borgogna ci sono i suoi orrori, e poi ci sono le mucche, e le mucche sono una, cioè, insomma, è bello stare dove ci sono le mucche, io trovo. Mangiare bene e bere bene. Visto anche com'era partita questa chiacchierata con Stefano, che dice di avere a cuore la Borgogna, o meglio il Borgogna, chiedo quindi se ha visitato qualche cantina. E il suo spirito, è il caso di dirlo, non manca di farmi sorridere. Sì, sì, ho visitato diverse cantine, poi si beve per dimenticare, quindi poi non è che uno poi... ma lì è proprio bello la cultura che c'è del vino e il fatto che appunto sia così diffuso lì. Poi fortunatamente si riesce anche a trovarlo a prezzi, non perché il vino francese in realtà è molto caro, è molto più caro del nostro, ma mi pare che faccia tutto parte, ecco, di una concezione della vita abbastanza abbastanza così tranquilla e volta al benessere. Mi sembrano molto bravi a riprodurre delle condizioni ideali senza appunto certe esagerazioni nei prezzi che, vino a parte, abbiamo in Italia. La cultura del vino non può che esserci nella regione dalle 100 denominazioni di origine controllata, e dove il vino è certamente l'ambasciatore più famoso di questo luogo bello, magico, che conserva una struttura rurale radicata. Verrebbe da pensare come le Langhe, per fare ancora un paragone con l'Italia, dove il vino è onnipresente e la vita scorre con i ritmi della produzione. Guardalo come ti aspetta senza avere fretta, silenziosamente, il vino. Guarda come se ne scende elegantemente nel bicchiere grande, il vino. Senti che dentro la stanza, come in una danza, lentamente vola un profumo leggerissimo di viola. Quando prendi lentamente il bicchiere grande, lo sollevi in alto adagio. Sandro Sangiorgi, editore di Portos, dice che nella produzione del liquido odoroso lo slancio artistico è della natura. In Borgogna più che mai, si può aggiungere. Questa infatti è una zona che la legislazione ha dettagliatamente parcellizzato in un sistema piramidale, dove ci sono denominazioni regionali su tutto il territorio alla base, a salire denominazioni comunali e infine vigneti chiamati cru, classificati en premier e grand cru. Ma a complicare e sfaccettare meravigliosamente il tutto, c'è che è un cru è suddiviso in tante proprietà diverse, e questo amplifica la possibilità d'espressione del terroir. E visto che le parole sono importanti in questa puntata più di sempre, dicesi terroir la concomitanza di specifiche condizioni in una zona tra il luogo, le consuetudini produttive e il vitigno. Chissà se siamo stati chiari. Chiaro è che qui il vino molto buono non sempre costa una follia. Ecco, perché lì ci sono, a tutti i livelli, diciamo, per tutte le tasche, ci sono queste possibilità abitative molto molto confortevoli, e veramente per quattro lire. Gli italiani non si incontrano mai in questi posti, tipo le chambre d'hôte, no? Che sono, come, insomma, diciamo, il modello dei nostri agriturismi, perché gli italiani normalmente vanno in camper, ma invece io trovo che appunto siano delle forme bellissime, perché si va in queste case di campagna, dove si fanno moltissimi incontri, insomma si parla con altri visitatori, è proprio una dimensione di convivialità, sembra quei racconti di Calvino in cui ci sono i cavalieri che si incontrano in un castello e ognuno racconta la sua storia usando un mazzo di carte, perché non ci sono lingue in comune o il castello incantato e nessuno sa parlare. E mentre Stefano rievoca Calvino, nella mia testa risuona l'incipit del romanzo cui fa riferimento, Il castello dei destini incrociati. In mezzo a un fitto bosco, un castello dava rifugio a quanti la notte aveva sorpreso in viaggio, cavalieri e dame, cortei reali e semplici viandanti. Passai per un ponte levatoio sconnesso, smontai di sella in una corte buia, stallieri silenziosi presero in consegna il mio cavallo. Ero senza fiato. Le gambe mi reggevano appena. Da quando ero entrato nel bosco, Tali erano state le prove che mi erano occorse, gli incontri, le apparizioni, i duelli, che non riuscivo a ridare un ordine né ai movimenti né ai pensieri. Capita di non avere lingue comuni e ci si arrangia. Insomma, una cosa, il vino, ecco, entra dentro a una dimensione conviviale e ha una forma di turismo che secondo me è veramente eccellente. Io ci sono andato anche quando le mie figlie erano molto piccole e trovavo sempre qualcosa da far fare loro, dei parchi naturali con animali, però quasi in semilibertà, insomma, non quelle cose deprimenti da zoo o mescolati con dei divertimenti d'acqua. Ecco, ho sempre trovato in mezzo alla campagna, uno potrebbe anche pensare che avendo dei bambini non ci sia nulla da fare, i bambini poi si annoiano, invece lì hanno appunto queste forme non insistite, non troppo pubblicizzate, insomma abbastanza tranquille, ed è, devo dire, appunto un posto in cui mi piace stare, perché altrimenti, insomma, la vacanza è un inferno normalmente, secondo me, cioè, è molto più riposante lavorare. Ecco, una buona alternativa tra la vacanza e il lavoro per me è la Borgogna. Ma tu di cartoline ne scrivi? Domanda obbligata da fare a chi con le parole ci vive. Beh, non più, una volta da bambino sì, adesso non più. Le ultime sono state perché appunto è una cosa che appassiona o appassionava molto i bambini, quella delle cartoline. Quindi le ultime sono state le cartoline di quando le mie figlie erano in età da mandare cartoline. Adesso invece si va di SMS, bacheche Facebook, quelle cose, quelle diavolerie lì. Diavolerie alle quali dedica più di un capitolo del suo ultimo libro Come dire, perché da chi ci sono email, SMS, forum vari, le persone hanno preso a scriversi l'un l'altra molto più di quanto non si usasse con le cartoline postali, che però, proprio perché più rare, avevano tutt'altro sapore. Mentre il re delle banconote invita il re del mambo, che sposa la figlia del reggente di Sardegna, nipote del re del piombo, della seta e della stoffa stampata e della carta colorata, io ti scrivo, caro fiore, che qui non nevica e non piove, che sono sveglio da più di un'ora anche se giorno non è, che passano gli orsi in bicicletta e vanno a lavorare. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Borgogna con Stefano Bartezzaghi. Stefano Bartezzaghi mi sta facendo conoscere la sua Borgogna. Fra mucche e colline, strade deserte da percorrere in macchina e castelli dove il vino è una specie di esperanto che mette in comunicazione viaggiatori di ogni nazionalità, mi sento di sfidare il mio compagno che a parole è bravissimo. Perché non gustarsi la Borgogna come se fosse il Borgogna? E così partiamo con l'analisi organolettica di questa terra. E Stefano diventa sommelier. Si parte dall'esame visivo. Beh sì, il verde, poi tutti i colori legati alla terra, tutte quelle sfumature di rosso e rossiccio che poi troviamo anche dentro al vino. E poi una cosa visiva invece importante, che appunto è un vantaggio, i francesi sono stati bravi rispetto a noi da questo punto di vista, è secondo me nell'edilizia, perché girando per le campagne italiane si trovano spesso, insomma, un miscuglio di vecchie case, magari ristrutturate bene e belle da vedersi, di tipologie diverse a seconda delle zone, Piemonte, la Lombardia, l'Emilia, la Toscana o il Meridione, e poi mescolate a queste purtroppo delle case, cioè le case cosiddette geometri, tirate su con righe squadra e anche con quelle tristi. Io non sono un grande né esperto di architettura né ho delle grosse fisime, però lì un po' mi vengono ogni tanto, perché vedi quelle cose tristi, quelle ringhierine di ferro battuto quei materiali che indovini subito che sono poco isolanti, quindi passa tutto dall'altra parte e via dicendo. Invece in Francia anche le case, cioè, sono di belle e di brutte, ma anche le case brutte sono abbastanza belle, nel senso che hanno mantenuto un po', tendono più di noi a mantenere i moduli tradizionali, costruiscono delle cose nuove però un po' secondo le cose, i moduli vecchi. E questo appunto è un'ottima cosa. Poi hanno il pas de bois, che è appunto questa tecnica, questo materiale di costruzione, pasta di legno con quelle travi delle case più antiche, ce ne sono di bellissime a Bonn e a Dijon. E poi, ogni tanto c'è la cattedralona, insomma, come a Autun, lì parte proprio il goticone più inquietante, che va a sentire in uno di quei romanzi di Umberto Eco, il pendolo di Foucault, cioè dei templari, cose abbastanza divertenti. Bene, dopo aver fatto roteare la Borgogna in un calice da degustazione immaginario ed averne colto le sfumature di colore, passiamo adesso all'esame olfattivo. Che profumi esala questa terra? Quello olfattivo, mamma mia, gli odori di Borgogna, beh, lì è campagna, quando uno si tira fuori dagli stradoni che passano, appunto, prendi una stradina laterale e sei subito in mezzo a boschi, e, insomma, e lì appunto si entra proprio nella campagna più classica, più proprio, cioè il prototipo di campagna. Ci sono anche, poi io chiamo Borgogna, è una regione, essendo una regione mentale, anche dai profili incerti, e sfuma su altre regioni, per esempio la Sologne è una regione storica, non si trova su nessuna cartina, è come andare a cercare la Brianza, nessuno sa dove comincia, dove finisca la Sologne, si fa proprio fatica a trovarla, ed è una piccola zona dove tutta di foreste, stagni, paradisi per cacciatori e per ciclisti. E gli uni cercano di evitare gli altri, e evidentemente, cioè si spera almeno che i cacciatori evitino i ciclisti si tengono alla larga dei cacciatori, e anche lì appunto non so quanto quanto profonda possa essere l'esperienza olfattiva, però insomma appunto diciamo un benessere generale. Ma com'è bello il vino, rosso, rosso, rosso, bianco al mattino. Sono dentro un fosso e in mezzo all'acqua sporca. Mi godo queste stelle, questa vita è corta, è scritto sulla pelle. Visti i colori e sentiti i profumi della Borgogna come se fosse un vino, arriva la parte migliore, l'assaggio e l'esame gustativo, per chiudere questo gioco da sommelier geografico fatto con Stefano Bartezzaghi. E quella gustativa appunto è legata, cioè l'altra cosa bella della Borgogna è sulla... il rapporto con la cucina francese, no? Che la cucina francese la si adora, però ha anche dei limiti, è sempre un po' troppo condita, un po' troppo così. Invece, cioè, la cucina di campagna è proprio molto più essenziale, e appunto, e lì insomma si va incontro, insomma, è il luogo in cui io vado incontro a quell'idea di natura, che io non penso che la natura sia un ritorno a qualcosa di originario, perché non è vero, mi rendo conto che è tutto costruito, non soltanto perché le case sono state rifatte, ma perché comunque già un formaggio è una cosa che gli ingredienti sono naturali, ma c'è dentro la cultura umana per ottenerlo, un modo di cucinare la carne, un modo di preparare il vino. Ecco, sul vino non ho il mito del vino del contadino, mi piace il vino dell'enologo, perché se l'enologo è bravo, è più bravo del contadino a fare il vino. E quindi appunto c'è questo aspetto di vera e propria di ricostruzione della natura, che lì mi piace molto come lo fanno, come offrono la loro interpretazione della natura. Perché la natura, appunto, ripeto, non è una cosa naturale, ma una cosa culturale, e dipende dalla cultura di ogni popolo, di ogni luogo. Ancora uno sforzo. Chiedo al mio compagno di viaggio l'accostamento. Con cosa accosterebbe la Borgogna? Musica? Libri? La musica, beh, insomma, dipende molto ovviamente dai gusti musicali, ma diciamo che in Borgogna io resterei sulla musica strumentale, senza voce umana. Non so molto bene perché lo dico, però mi viene questo. Libro, assolutamente qualsiasi libro va benissimo. Lunghe letture, ecco, il romanzone o il saggione da leggere con lentezza e sedute di lettura di ore, insomma 100 pagine alla volta. Infinite Jest di David Foster Wallace l'ho letto invece in Scozia, e sto appunto, diciamo, praticamente vi sto raccontando tutti i viaggi della mia vita, non sono molti più di questi, ma ecco, mi sarebbe piaciuto leggerlo in Borgogna. Una cosa per cui si va in giro la mattina e poi il pomeriggio si resta appunto nella Chambre d'Hôte, magari anche con una piscinetta lì vicino. No, tra l'altro, appunto, Wallace la seconda lettura invece l'ho fatta proprio in Sologno. E con la frase, a mio avviso, migliore del libro di Wallace, ci lasciamo per un attimo, per rivederci sempre qui tra poco in Borgogna. Sia i baci del destino, sia i suoi manrovesci, illustrano la fondamentale impotenza personale di ogni individuo sugli eventi veramente significativi della sua vita. Cioè, quasi nessuna delle cose importanti ti accade perché l'hai progettata così. Il destino non ti avverte. Il destino sbuca sempre da un vicolo e, avvolto nell'impermeabile, ti chiama con un psss che di solito non riesci neppure a sentire, perché stai correndo da o verso qualcosa di importante che hai cercato di pianificare. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Borgogna con Stefano Partezzaghi. Sto giocando al sommelier con Stefano Partezzaghi, ma un sommelier un po' sui generis. Infatti abbiamo appena degustato la Borgogna. Sì, avete capito bene, la Borgogna e non il Borgogna, proprio perché il vino qui è così connaturato alla terra che abbiamo pensato di versare un goccio di geografia in un calice e ne abbiamo visto il colore, sentito il profumo, assaggiato il gusto, per finire con la ricerca dell'accostamento ideale. Che se si tratta di musica, per Stefano è strumentale, ma se si tratta di libri, sono libri di una certa caratura, come Infinite Jest di David Foster Wallace, oppure... Questo genere di letture, libri non particolarmente semplici, lunghi, ma insomma che richiedono una certa immersione, perché è lì, se proprio non si è sfortunati e non si capita nelle Olimpiadi del tagliaerba, perché ogni tanto in campagna succede anche quello, che uno è nel posto più bello del mondo ma c'è un trattore o qualcosa del genere che proprio sta facendo un lavoro che gli occupa tutto il pomeriggio. Però ecco, è la situazione ideale per questo genere di lettura che rimandiamo. Per esempio, io lì ho la nuova traduzione del Maestro Margherita. Io non leggo il Maestro Margherita da quando ero ragazzo, e c'è una nuova traduzione di Margherita Crepax per Feltrinelli che è promettentissima, e non so mai quando leggerlo. Ecco, se andassi in Borgogna mi porterei dietro il Maestro Margherita. Nell'ora di un afoso tramonto primaverile, apparvero ai patriarsi e prudi due cittadini. Il primo, vicino ai 40 anni, vestiti di un completo estivo grigio chiaro, era piccolo di statura, bruno, ben nutrito, calvo, e teneva in mano, come fosse una torta, il suo elegante cappello. Ma sul suo viso, accuratamente rasato, non mancava un paio di occhiali di grandezza sovrannaturale, con una montatura di corno nera. Il secondo, un giovane arruffato, largo di spalle, con i capelli rossicci e un berretto a quadretti di sghembo sulla nuca, aveva una camicia a scacchi, una cowboyca, pantaloni bianchi gualciti e scarpe nere leggere. È un buon inizio. Bulgakov con noi in Borgogna. Ma a proposito di libri, chiedo a Stefano di parlarci del suo Galateo della comunicazione, cercando magari di metterci in guardia dai possibili errori legati alla lingua che si fanno quando si viaggia in paesi stranieri. Un po' nella scia di questo libro che ho scritto, che doveva essere un Galateo della comunicazione, cioè il consiglio è sempre di come come rapportarsi. È ovvio che ogni terra, e ogni lingua, e ognuno è contento di sapere, per esempio, come si dice scusi, come si dice buongiorno, come si dice, cioè ci sono quelle frasi e ognuno ha le frasi che vuole imparare subito. Però ci sono delle cose a cui non sempre siamo attenti. E una cosa che consiglio io è di stare attenti ai cosiddetti falsi amici. I falsi amici sono quelle parole che sembrano le stesse parole italiane, a volte sono le stesse parole, ma vogliono dire cose completamente diverse. E il caso più clamoroso in Francia è ovviamente la nostra onnipresente congiunzione con, preposizione con, che in francese si dice avec, perché con in francese esiste, ma non è una bella parola. Diciamo che è una parola che in senso anatomico allude a parti dell'anatomia, una parte dell'anatomia femminile e solo femminile, ma nel senso estensivo, come insulto, viene usato come noi usiamo invece una parte maschile plurale, diciamo, per dire che uno è uno scioccone e usa male il cervello. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. E se vogliamo portarci a casa qualcosa, che ci consiglia Bartezzaghi? Immancabilmente un riferimento al vino, per poi passare con ironia, come spesso è accaduto nella nostra chiacchierata fin qui, a un souvenir mancato. Allora, dalla Borgogna normalmente ci si porta del vino e non si sbaglia, evidentemente, oppure anche cose legate all'universo del vino, perché ovviamente c'è tutta la oggettistica relativa, cavatappi, decanter, le cose più... E lì appunto si trovano anche dei posti molto molto forniti. E una cosa che ho lasciato in Borgogna con dispiacere è sempre legato al mondo del bere, ma non del bere alcol, ed era in un negozio di Dijon. Però era chiuso il negozio, ed è per quello che io, insomma, poi dovevo partire e non ho più potuto acquistarlo. Avevo visto la teiera del poeta solitario. Adesso, io non sono poeta, sono un po' solitario, un po' sì, ma neanche tanto, ma era delizioso come oggetto, perché era la tipica teiera bombata, però era una sezione di teiera, insomma, praticamente era piatta come una borraccia ai due lati, e quindi conteneva praticamente una tazza e mezza di tè. Sembrava una teiera grande e invece ridotta ai minimi termini, e quella era molto divertente, poi come oggetto da esposizione. Ovviamente era in Borgogna, ma magari era una cosa che veniva da Treviso, non voglio dire, però ecco, quando si è in giro, io che Appunto, non faccio molto shopping, normalmente ho un uso molto funzionale della città. Diventa poi anche un po' una vacanza vedere cose, oggetti che uno di cui normalmente non si dota, oppure appunto passa da uno sguardo distratto alla vetrina. E il mio shopping, i miei souvenir, i miei regali sono cose così, pescati non magari particolarmente legati a quel luogo, ma perché appunto è in quel luogo che ho avuto il tempo, la pazienza e così l'idea di sceglierli. Saluto e ringrazio Stefano Bartezzaghi con una frase di Molière: grande è la fortuna di colui che possiede una buona bottiglia, un buon libro, un buon amico. E in questa puntata possiamo dire che non sia mancata nessuna delle tre cose. Ora Stefano Bartezzaghi è in libreria con Come dire, Galateo della comunicazione, edito da Mondadori. Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi tre ore, venga che uniamo i tavoli, signor. Voglio cantare e dimenticare coi nostri vini il nostro triste amor. Barbera e champagne.